Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, il clementissimo. Figlio mio, il primo e nello stesso tempo il più importante consiglio che io ti do è quello di vivere costantemente nel timore di Allah, rifulga lo splendore della sua luce. Sii pertanto, figlio mio, un obbediente servo di Lui nell'osservanza del sublime Corano e della nobile sunna dell'Apostolo di Allah, di tuo nonno. Se Allah non voglia, tu dovessi sentire che il tuo cuore è andato in rovina perché il tuo sentimento islamico si è affievolito, ricostruiscilo e rafforzalo con la luce radiosa della parola divina, la quale, come ben sai, si trova nelle pagine sante del sublime Corano. Tieni sempre in primo piano nella tua coscienza la consapevolezza che un legame indissolubile ti lega in quanto creatura ad Allah, che è il tuo creatore, e custodiscila questa consapevolezza con grande cura. Sappi che nessun legame è più forte e durevole di questo. Nessun altro legame, quando uno ne sia consapevole, può imporre maggiore rispetto e considerazione di questo, sicché la cosa più ragionevole che la creatura umana possa fare contro se stessa è quella di non dare ad esso l'importanza che merita. Mantieni vivo il tuo cuore con la scienza, la saggezza e il giusto apprezzamento dei buoni consigli. La fede gli darà potenza e la sapienza lo illuminerà con il permesso di Allah, rifulga lo splendore della sua luce. Domina la tua passionalità con il pensiero della morte, sicché tu, rendendoti conto della caducità del mondo, possa aumentare la tua capacità di vedere le malvagità e le sofferenze che in esso abbondano. Apri i tuoi occhi sul fatto che nella vita esistono sventure, avversità e cambiamenti di situazione. Obbliga quindi te stesso a studiare le vicende degli uomini di cui parla la storia. Rifletti sulle rovine delle città, sui ruderi dei palazzi diroccati, sui segni della decadenza e su ciò che resta dei grandi imperi e dei regni del passato. Medita sulle attività delle generazioni vissute prima di noi, su ciò che i protagonisti degli eventi che hanno caratterizzato le loro storie hanno fatto nel loro tempo e quello che hanno realizzato quando il potere era nelle loro mani. Considera da dove hanno avuto inizio le loro fortune e quando e come da esse sono stati abbandonati. Dove sono adesso gli uomini che hanno fatto parlare di sé nella storia del loro tempo? Che cosa hanno ricavato dalla loro vita? Qual è stato il loro contributo al benessere e al progresso civile dell'umanità? Se tu ci pensi sopra, anche soltanto per un attimo, scoprirai che ognuno di quegli uomini, il quale visse con altre persone e in mezzo a cose che gli davano gioia e che lui amava, si trova adesso in una angusta dimora, da solo e, molto probabilmente, nessuno oggi si ricorda più di lui. Anche tu sarai come lui, perciò abbi cura di provvedere con la massima oculatezza per la tua futura dimora. Non perdere la benedizione divina che assicura l'eterna realtà della vita futura nel paradiso per inseguire le temporanee vanità di questo basso mondo. Non parlare di cose che non conosci, non esprimere giudizi in materie nelle quali non sei stato in grado di formarti un'opinione e soprattutto su cose che non ti riguardano e sulle quali non sei invitato ad esprimerti. Se dopo esserti incamminato su una strada ti sorge il dubbio di camminare su una strada sbagliata, fermati. Infatti, quando ci si rende conto di correre il pericolo di vagare nella confusione dell'ignoranza, con la possibilità di perdere di vista lo scopo che si vuole realizzare e di mancare il risultato che ci si era proposti di conseguire, è meglio interrompere l'azione piuttosto che continuare, correndo il rischio di dover fronteggiare poi pericoli tanto imprevedibili quanto inevitabili. Le tue parole, quando parli alla gente, siano consiglio di fare il bene e di vivere onestamente, e le tue azioni siano un insegnamento di come si possano evitare le cattiverie e la mancanza di rispetto. Evita le persone che vivono abitualmente nel vizio e nella trasgressione delle regole di vita dettate da Allah, rifulga lo splendore della sua luce, e del nostro santo profeta, che Allah lo benedica e la ben gloria. Sforzati, quando è necessario, nella difesa della causa di Allah e non temere le critiche della gente. Sostieni sempre la verità e la giustizia senza mai avere paura e sii pronto a fare fronte con coraggio agli ostacoli che inevitabilmente incontrerai nel difenderle, sopportando con pazienza le sofferenze che te ne deriveranno. Prendi sempre le parti della causa della verità e della causa della giustizia dovunque ti capiti di incontrarle. Studia con assiduità la teologia e la legge, in modo da acquistare una conoscenza sempre più profonda della dottrina e della pratica dell'Islam. Sviluppa la virtù della pazienza nell'affrontare le sofferenze, le calamità e le avversità che incontrerai nella tua vita. La pazienza, infatti, è uno dei più alti valori della linea di condotta islamica e l'aspetto chiave della nobiltà d'animo del musulmano. Abbi fiducia in Allah subhanahu wa ta'ala e invoca la sua protezione in ogni situazione difficile della vita, perché così facendo affiderai te stesso e le tue cose al migliore dei custodi e al più potente dei guardiani. Non cercare quindi protezione in altri che Allah subhanahu wa ta'ala, e solamente a Lui riserva la tua adorazione, rivolgi le tue preghiere e le tue suppliche. Sappi che è solo nel suo potere, unicamente nel suo potere, sia il dare, il garantire, il concedere, sia il togliere, il privare, il rifiutare. Chiedi quindi più sovente che puoi il maggior numero dei suoi favori e cerca il più spesso possibile la sua guida. Cerca di assimilare questi miei consigli, riflettendo profondamente su essi. Non prenderli alla leggera e non allontanarti mai da essi, perché la migliore delle conoscenze è quella da cui derivano benefici a chi ha saputo ascoltare e mettere in pratica i buoni consigli. Il sapere che non apporta beneficio alcuno è cosa inutile e per questo ragionevole motivo non merita di essere preso in considerazione e ricordato. Ti affido questo mio sapere perché grazie a esso i desideri disordinati, le tentazioni, le lusinghe fallaci della vita mondana non abbiano presa su te. Non voglio che tu sia come il cammello che è incerto quando non è stato addestrato. Un cuore giovane è come un terreno fertile che permette al seminato di verdeggiare e di produrre frutti. È per questo che ti consegno queste mie pagine, nelle quali raccolgo per te i risultati dei miei studi e delle mie esperienze in questa tua età di adolescente, prima che la tua mente perda la sua freschezza, prima che si indurisca o si accartocci, affinché tu tragga vantaggio dalle tradizioni accumulate, dalle conoscenze raccolte e dalle esperienze degli altri. Gli avvertimenti e i consigli che ora ti sto dando ti risparmieranno, se Allah vuole, la fatica necessaria per acquistare la conoscenza, cioè di dover imparare a tue spese dalle esperienze negative e dover ricorrere al consiglio degli altri. Con la riflessione su queste pagine tu potrai facilmente acquistare la conoscenza che gli uomini devono procurarsi con grande studio, difficoltà e pazienza. Quelle cose che, essendo nascoste ai loro occhi, solo l'esperienza e le sofferenze hanno portato alla luce, sono ora messe a tua disposizione in modo facile e in maniera conveniente per mezzo di questi miei consigli. Con grande cura ho studiato la storia di genti del passato, ho seguito con diligenza le loro attività, ho meditato sulle loro decisioni e sulle loro azioni, ho studiato i loro cimeli, le loro reliquie, i loro ruderi, ho meditato così profondamente sulle loro vite che ho avuto la sensazione di aver vissuto e lavorato con loro dalle età più remote della storia fino ai nostri giorni, e so che cosa ha fatto loro bene e cosa ha portato loro male. In queste pagine, separando il buono dal cattivo, sto concentrando per il tuo bene la conoscenza che ho messo insieme in questo modo. Attraverso questi consigli cerco di farti comprendere, da una parte, il valore di una vita onesta e vissuta con nobili sentimenti, e dall'altra i pericoli di una vita di vizio e di trasgressione. In verità, fino dalla tua infanzia ho avuto cura di considerare e di vigilare su ogni aspetto della tua vita, come è dovere di un buon padre premuroso e affezionato, aiutandoti a sviluppare un carattere nobile e a prepararti per la vita, per abituarti a diventare un giovane generoso con una mente onesta e una chiara e precisa conoscenza delle cose che ti circondano. All'inizio il mio desiderio era quello di insegnarti in profondità il sublime Corano per farti capire le sue complessità, per impartirti una completa conoscenza dei suoi ordini e delle sue proibizioni, e nell'insegnamento che ti ho dato non ho usato altro che il libro di Allah subhanahu wa ta'ala. Ma dopo aver adempiuto, vedo, con successo a questo mio preciso dovere di genitore, mi sono sentito inquieto al pensiero di lasciarti impreparato e non istruito a riguardo di quegli argomenti che di per se stessi sono soggetti a grande confusione e a tante contraddizioni. Argomenti le cui idee confuse sono, a loro volta, inestricabilmente intrecciate a desideri egoistici, mentalità deviate, modi di vivere perversi ed empi atteggiamenti di pensiero. Per questo ho annotato in queste righe i principi basilari della nobiltà, della pietà, della verità e della giustizia. Il mio desiderio nello scriverti questa lettera è quello di armarti con questa conoscenza piuttosto che lasciarti disarmato a fronteggiare un mondo nel quale ci sono innumerevoli pericoli di rovina e di dannazione. Spero che Allah rifulga lo splendore della sua luce, ti conceda la sua divina guida e ti conduca sulla retta via. Ti raccomando quindi di far tesoro degli insegnamenti e dei consigli che leggi in questa lettera, che ti invito a considerare come mio testamento spirituale. Ricorda che il migliore di questi miei consigli è quello di temere Allah subhanahu wa ta'ala, concentrandoti e dedicandoti all'adempimento di quei doveri che egli ha reso obbligatori, seguendo le orme del profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, e quello dei suoi compagni. I compagni del profeta, infatti, hanno sempre ponderato con attenzione i loro pensieri e le loro azioni, arrivando alla massima realizzazione dei loro doveri umani, compiendo scrupolosamente gli stessi e allontanandosi dalle cose che sono apparse ai loro occhi poco chiare e incerte. Se la tua mente ti distrae dalla vita che essi, in questi ultimi anni, dopo la dipartita dell'Apostolo di Allah subhanahu wa ta'ala, hanno seguito, e se essa non vuole considerare e affermare le cose che essi hanno visto e pensato, tu devi obbligarla a obbedire e a desiderare di percorrere anche tu quella meritevole via, usando l'intelligenza, lo studio, la conoscenza. Non devi permettere a te stesso che l'indifferenza e il dubbio avvelenino la tua mente e che lo scetticismo e l'irrazionalità, ciò che ti piace o che non ti piace, influenzino il tuo pensiero e la tua azione. Chiedi la guida ad Allah subhanahu wa ta'ala e pregalo di condurti sempre sulla giusta direzione. Evita che le tue idee siano confuse e non lasciare che l'incredulità circa la verità della provenienza divina del sublime Corano e la missione apostolica di Muhammad, che Allah lo benedica e la ben gloria, abbia presa sulla tua mente, perché la prima cosa ti porterà verso l'agnosticismo e l'altra ti farà cadere inevitabilmente in gravi errori e pericolosissime trasgressioni. Quando avrai preparato in questo modo te stesso a risolvere ogni problema e sarai sicuro di possedere una mente chiara e un sincero e un fermo desiderio di raggiungere la verità, di dire le cose giuste e di compiere le giuste azioni, allora segui attentamente i consigli che io ti lascio. Sappi che se la tua mente non è completamente libera dal dubbio e dallo scetticismo, come vorresti, ti troverai vagante nella confusione dell'incertezza e degli errori, come il cammello, il quale soffre per la profonda oscurità della notte. In queste circostanze è meglio rinunciare a ogni iniziativa e darti da fare per eliminare ogni incertezza e ogni dubbio, perché con tali limitazioni né tu né nessun altro potrà mai raggiungere la verità e mettere compiutamente in pratica la religione. Ricorda molto attentamente queste parole. Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, è non soltanto il padrone della vita, ma anche il padrone della morte. Egli è il creatore e l'annientatore. È colui che ha il potere di annientare, ha anche il potere di riportare ogni cosa all'esistenza. Colui che invia sventure su te è colui che ti porterà in salvo. Ricorda che questo mondo è retto da leggi ordinate da Allah subhanahu wa ta'ala e consiste nella somma totale e nell'insieme di azioni e di reazioni, cause ed effetti, disgrazie e il loro opposto, sofferenze e piaceri, ricompense e punizioni. Ma questo non è tutto ciò che il quadro rappresenta. Ci sono cose che sono al di là della nostra comprensione, cose che non conosciamo e non possiamo conoscere, e cose che non possono essere previste e predette. In queste circostanze, se tu non comprendi una cosa, non rifiutarti di accettarla se essa non contrasta con il sublime Corano e la nobile Sunna. Ricorda che la mancanza di comprensione di qualcosa può essere dovuta all'insufficienza della tua conoscenza riguardo ad essa. Ricorda che quando sei arrivato in questo mondo, la tua prima apparenza era quella di una creatura ignorante, non preparata e incolta. Poi hai gradualmente acquistato la conoscenza. Ci furono diverse cose in questo mondo che, essendo al di là della tua conoscenza, ti hanno reso perplesso e sorpreso, in quanto di esse non comprendevi il come e il perché. Però, gradualmente, hai acquistato la conoscenza di qualcuno di questi argomenti e in futuro la tua conoscenza e la tua visione potranno svilupparsi ulteriormente. Perciò la cosa migliore per te è quella di cercare la guida di colui che ti ha creato, che ti mantiene e ti nutre, che ti ha dato una mente equilibrata e un corpo normale in ogni sua funzione. Le tue preghiere devono essere riservate a Lui soltanto, le tue richieste e le tue suppliche rivolte a Lui solo. È Lui che devi temere e nessun altro. Tieni bene in mente che nessuno ha dato al genere umano così dettagliate informazioni su Allah l'Altissimo come Egli stesso le ha date nel sublime Corano e come le ha date il nostro santo profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, nei suoi insegnamenti teologici. Con questa certezza nel cuore e nella mente, ti consiglio di avere fede nell'insegnamento divino, di eleggerlo come tua guida e di accettare le sue direttive riguardanti la linea di condotta da seguire per la tua salvezza dal fuoco dell'inferno. Con questa mia lettera credo di aver fatto la cosa migliore che un sincero e affezionato consigliere possa fare, e ti assicuro che per quanto tu possa cercare una via migliore per il tuo bene, non ne troverai nessuna superiore a quella che ti ho consigliato. Ricorda che Allah l'Altissimo, il nostro Creatore, è l'unico che noi dobbiamo riconoscere come nostro Signore e adorare con culto esclusivo. Egli si è manifestato e noi sappiamo, in virtù della sua parola, che nessuno divide con lui il suo regno, la sua potenza, la sua gloria. Egli è l'ente eterno che ha creato l'esistente temporaneo. La sua gloria e la sua essenza sono al di là della capacità di comprensione delle nostre menti e dei nostri intelletti, il cui perimetro invalicabile è dato dai limiti della nostra esperienza. Nessuno quindi può comprenderlo o immaginarlo. Quando hai solidamente radicato nella tua mente queste verità e questa realtà, allora il tuo comportamento, per quanto concerne i suoi ordini e le sue proibizioni, sarà quello di una persona che si rende conto che la sua condizione, il suo potere, la sua posizione non sono niente comparate ai poteri del suo Signore. Sarà quello di chi vuole guadagnare i suoi favori attraverso la preghiera e l'obbedienza, teme la sua collera come sua punizione e ha assolutamente bisogno del suo aiuto e della sua protezione. Ricorda che Allah l'Altissimo ha ordinato di fare il bene che propaga e distribuisce bontà e ha proibito unicamente di fare ciò che è male e produce effetti deleteri. E la lode appartiene unicamente ad Allah, il Signore e il padrone di tutto ciò che esiste.